Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sei anni, non sono pochi. In sei anni possono iniziare e finire grandi amori. Si possono avere figli, cambiare lavori, città. Possono cambiare molte cose, alcune belle, altre meno, ma la vita si evolve. Il mondo intorno a sé cambia ed è bello partecipare a questo cambiamento. Se questo non succede, è come la morte. Questo deve aver pensato Ingrid Betancourt nei sei lunghi anni di prigionia che ha trascorso nella giungla colombiana. Abbandonata, sola, malata, confinata, lontana da tutto. Oggi a Destini Incrociati parliamo di una donna forte e coraggiosa e di come abbia osato sfidare politici potenti, primo fra tutti l'altro protagonista della nostra storia. Ma partiamo da Ingrid, una donna che per nascita ed estrazione aveva tutto e ha preferito sacrificare questo tutto per un ideale, per il suo paese. Siamo nei primissimi anni 60 a Parigi, anzi a Neuilly per essere precisi, sobborgo abitato dall'alta borghesia parigina, il quartiere dei grandi nomi della finanza, dello spettacolo e soprattutto della politica francese. Per intenderci, è il comune dove Nicolas Sarkozy è stato sindaco per tanti anni e dal quale è partito molto avvantaggiato per la scalata all'Eliseo. In questa cornice dorata crescono le sorelle Betancourt. Astrid, nata nel 1960, e Ingrid, la nostra protagonista, del 1961. Ce le immaginiamo con i loro cappottini con la martingala e il colletto di velluto, le scarpe inglesi e le trecce sottili, accompagnate al Bois de Boulogne dalla governante, come ben si conviene alle figlie di genitori importanti e con una vita piena di impegni. Il padre di Ingrid, Gabriel Betancourt, è un ex ministro dell'educazione colombiano che dopo un periodo trascorso a Washington per lavorare al fianco di John Kennedy in un progetto di sviluppo per l'America Latina, si ritrova in Francia con un incarico da diplomatico. La madre, Yolanda Pulesio, è un ex Miss Colombia che in seguito diventerà senatrice e che intanto ha votato la sua vita a promuovere progetti a favore dei bambini di strada. La famiglia di Ingrid è ricca, ben introdotta negli ambienti dell'intelligenza culturale francese e internazionale, aperta alle relazioni, impegnata politicamente. Quando Ingrid ha 5 anni, il padre viene richiamato a Bogotà per tornare a far parte del nuovo governo appena creato, sempre come ministro dell'educazione. Per Ingrid e sua sorella, il trasferimento significa la scoperta, la possibilità di conoscere il loro paese di origine di cui non conservavano memoria. Così diverso dalla splendida Parigi, così chiassoso, colorato, caldo. Ma l'avventura dura poco. Gabriel entra presto in contrasto con gli altri esponenti politici e viene rispedito in Francia. Questa volta il ritorno a Parigi non ha più il sapore dell'affermazione, quanto quello della disfatta. La famiglia è ben conscia che questo trasferimento è una sorta di dorato prepensionamento che Gabriel Betancourt si è guadagnato a causa della sua scomoda figura politica. In un paese dove la corruzione è da sempre parte integrante del sistema politico, il suo tentativo di tener testa a intimidazioni e clientelismo hanno prodotto solo l'allontanamento definitivo dalla Colombia. Non basta lo splendido appartamento di 500 metri quadrati ad Avenue Foch nel quale si insediano i Betancourt a far digerire la pillola a Gabriel. La coppia reagisce, gettandosi in un vortice di mondanità, frequentando il bel mondo nella Parigi della fine degli anni 60, dai grandi politici francesi agli intellettuali sudamericani come il pittore Botero e il poeta Pablo Neruda, alle icone della bellezza come Brigitte Bardot. Ma questi sono anche anni di grande fermento sociale e intellettuale in Francia. Il famoso maggio francese, niccia delle successive rivolte che per tutto il 68 si propagarono nel mondo, si è appena concluso. Sono stati mesi esaltanti, in cui studenti, operai e uomini di cultura si sono uniti per manifestare contro l'assetto eccessivamente capitalistico avviato dalla società occidentale del dopoguerra. Fra i tanti intellettuali che hanno dato il loro contributo al movimento, spicca la figura di Jean-Paul Sartre, il filosofo e scrittore francese che appena 4 anni prima era stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Sartre scende in piazza al fianco dei giovani, motivando così la sua scelta. Voglio testimoniare in strada perché sono un intellettuale e perché penso che il legame tra il popolo e gli intellettuali, che esisteva nel XIX secolo riuscendo spesso a dare ottimi risultati, dovrebbe essere ritrovato anche oggi. È da 50 anni che popolo e intellettuali sono separati. Oggi è necessario che ritornino uniti. Non perché gli intellettuali diano consigli al popolo, ma al contrario, perché queste masse prendano una nuova forma. Ed è per questo che vi dico, ci ritroveremo certamente. Nel 69 la Francia cerca di voltare pagina, eleggendo Georges Pompidou presidente. A differenza dei suoi compagni di partito, durante le rivolte del 68, Pompidou cerca di trovare un accordo con i movimenti studenteschi e operai. E questo suo atteggiamento lungimirante verrà premiato quando si presenta candidato l'anno dopo. La Francia non si pente di questa scelta, perché Pompidou si rivela un presidente aperto e con obiettivo di trasformare il paese in una nazione moderna e industrializzata. In questa Francia colta e progressista, Ingrid trascorre ancora 5 anni, anni formativi, in cui le idee di democrazia e libertà diventano parte integrante della sua personalità. Se per questi concetti così vasti e profondi deve ringraziare l'humus culturale in cui vive, nella vita quotidiana sarà la vicinanza con la tata Anita, una saggia portoghese che si occupa delle bambine, che le permette di non perdere di vista, anche vivendo in un mondo ricco e dorato, quali sono i veri problemi del mondo. Ingrid ricorda spesso nella sua autobiografia quanto le insegna la tata Anita. Non devi dimenticare, Ingrid, che il mondo non somiglia a quello che frequenti oggi. La realtà fa male, la vita è difficile e un giorno forse lo sarà anche per te. Devi essere consapevole e preparata. Sono parole di grande saggezza che Ingrid ricorderà in futuro, quando la sua esistenza senza pensieri avrà fine e gli anni della prigionia arriveranno. Ma anche il padre Gabriel, nonostante gli impegni, parla spesso con le sue figlie e Ingrid ricorda quanto debba a lui il senso di un legame e di gratitudine con la Colombia, la loro terra di origine. Sai, Ingrid, la Colombia ci ha dato tanto. È grazie a lei che hai conosciuto l'Europa, che hai vissuto in mezzo a un'atmosfera culturale che nessun colombiano conoscerà mai. Non dimenticare mai tutte le possibilità che ti sono state offerte da bambina. Oggi costituiscono un debito contratto con la Colombia. Saranno queste le parole che anni dopo sosterranno Ingrid nella difficile scelta di impegnarsi politicamente per la sua terra, anche se questo significherà separarsi dai suoi figli e dalla sua vita privilegiata. Ma intanto, dopo 5 anni trascorsi a Parigi, la famiglia Betancourt è nuovamente richiamata in Colombia. Ma con l'arrivo a Bogotà, gli equilibri familiari si spezzano definitivamente. Yolanda Betancourt decide di lasciare il marito e di dedicarsi ai suoi progetti di recupero dei bambini di strada. Ma nella Colombia degli anni 70 il divorzio per una donna significa l'ostracismo sociale. Le bambine vengono affidate al padre, anche se l'allontanamento dall'adorata madre pesa molto a Ingrid. Inoltre, dopo anni di Europa, il ritorno in un paese duro e retrogrado come la Colombia è causa di continui attriti sia con i compagni di scuola sia con il padre, che pretende da lei una vita da signorina per bene. Anche la mamma di Ingrid, Yolanda Betancourt, nonostante sia stata anche nominata consigliere comunale, non riesce più a sostenere la chiusura e le cattiverie della capitale e accetta una proposta di lavoro a Parigi pur di lasciare la Colombia. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó y al darle a mis amigos mi adiós postrero le doy con toda mi alma mi bendición. Per Ingrid è una ferita. Costretta a restare con il padre perché non ancora maggiorenne, conta i giorni che la separano al suo 18° compleanno. Quando questo arriva, parte subito alla volta di Parigi, dove nel 1980 si prepara a entrare a scienze politiche. Durante gli studi incontra Fabrice Deloyer, un giovane che si sta preparando per la carriera diplomatica, lavorando al Ministero degli Esteri come addetto commerciale. Si sposano e dopo la laurea di Ingrid, Fabrice ottiene il suo primo incarico, Quito, in Ecuador, molto vicino alla Colombia. Ma i 3 anni che la coppia trascorre a Quito, invece di avvicinare il marito di Ingrid alla Colombia, lo allontanano, spaventato dalla corruzione, dalla ripresa della guerriglia e dal dilagare del narcotraffico nel paese. Intanto Ingrid dà alla luce la sua prima figlia, Melanie, nel 1985. 3 anni dopo, nell'88, nasce Lorenzo. Dopo Quito sono assegnati alle Seychelles. Qui la vita è meravigliosa, ma è proprio questo contrasto con i problemi che affliggono la sua terra che alimenta i sensi di colpa della Betancourt. La mia felicità mi sembra sempre più futile, immeritata, perché si costruisce lontano dai miei. Tutta la felicità del mondo mi sembra vuota di fronte a quello che succede in Colombia. La Colombia è allo sbando, sull'orlo del disastro. Solo nel 1989 ci sono 23.000 morti. L'ultimo presidente malato lascia il paese nel caos e nelle mani dei narcos. Il tristemente famoso cartello di Medellin e in seguito quello di Cali sono ormai uno Stato dentro lo Stato che regola attraverso la corruzione e l'intimidazione la vita del paese. Sono anni di attentati nel pieno centro delle città, una guerra delle bombe che distrugge tutti indistintamente, prime fra tutti le istituzioni. Sull'esempio della madre Yolanda, che è tornata a vivere a Bogotà per cercare di fare qualcosa per aiutare il suo popolo, Ingrid, al rientro da una visita nel suo paese, a Los Angeles, dove adesso si trova, prende la decisione di intraprendere la carriera politica. La sua scelta apre un conflitto con Fabrice, che poco a poco diventa insanabile. Nel gennaio del 90 lascia il marito e i figli e parte per Bogotà. Ho 29 anni. Non ho lavoro né denaro, ma stranamente tutte queste carenze mi stimolano. Dovrò ricominciare da capo, imparare tutto. La voglia c'è. Sono 10 anni che aspetto. Mi sento forte e sicura di me stessa. La madre Yolanda decide di correre per le elezioni al Senato. Ingrid l'aiuta e questo sarà il suo primo impegno in politica. Quando la mamma vince, è il momento di passare ad altro, di iniziare a camminare sulle proprie gambe. Grazie ai suoi studi di scienze politiche, entra a far parte dello staff del ministro delle finanze e in seguito in quello per il commercio estero, dove si distingue per molte iniziative. È durante uno dei suoi viaggi per conto del ministero che incontra l'altro protagonista di Destini Incrociati di oggi, l'allora ministro per lo sviluppo Ernesto Samper. Ernesto Samper è un uomo dalla battuta pronta, ma che, come ricorda Ingrid, affronta i problemi del paese in maniera superficiale, anche grazie a un sistema di favoritismi che Samper non si fa scrupolo di nascondere. Ernesto Samper nasce a Bogotà il 5 agosto del 1950. Avvocato, economista e politico, entra molto giovane nel Partito Liberale Colombiano. Il suo primo incarico è all'Associazione Nazionale delle Istituzioni Finanziarie, fin quando, dopo una serie di altri incarichi, diventa deputato a soli 32 anni, nel 1982, e membro del Senato nell'86. Nel 90 si candida per la prima volta alla presidenza del paese. Sconfitto, entra comunque nel governo come ministro dello sviluppo ed è in questo momento che le strade di Samper e di Ingrid Betancourt si incrociano per generare eventi che saranno di importanza capitale non solo nella vita dei due, ma in quella di un intero popolo. Samper è giovane, simpatico, con l'invidiabile caratteristica di entrare facilmente in comunicazione con chiunque incontri, grazie al suo irresistibile umorismo. Ma è anche un politico furbo, più che onesto, che finge di prendersi a cuore gli interessi della gente per dimenticarsene un attimo dopo la fine dei comizi elettorali. Quando Ingrid chiede alla madre, che milita nello stesso partito di Samper, che tipo sia e come mai abbia tutti ai suoi piedi, questa risponde: «È colui che un giorno diventerà presidente della Repubblica». Parole profetiche, quelle di Yolanda Betancourt. Ernesto Samper verrà eletto 54esimo presidente della Repubblica Colombiana nel 94. Nonostante la sua simpatia e le irresistibili barzellette che racconta, verrà ricordato come il presidente più impopolare della Colombia e quello che causò la peggiore crisi politica del paese. Una crisi che coinvolge le istituzioni a tutti i livelli. La sua caduta sarà uno dei grandi meriti politici di Ingrid Betancourt. Ma andiamo per gradi. Siamo ancora nel 1993 ed è in questo anno che Ingrid Betancourt decide di compiere il grande salto. Basta lavori da tecnocrate in cui eseguire solo il volere di altri senza mai prendere decisioni autonome, efficaci. Lei vuole avere più potere decisionale, vuole poter fare veramente qualcosa, cambiare qualcosa, far parte della politica attiva. Ingrid decide allora di presentarsi alla Camera dei Deputati. Quando ne parla con la madre, questa la incoraggia. Buttati, Ingrid, è il momento giusto. Ormai hai una certa esperienza di governo e l'età per diventare il simbolo del nuovo. Ho sempre pensato che questo è il tuo destino. Per la sua prima campagna elettorale, la Betancourt, consigliata da un amico pubblicitario, si propone con una campagna shock. Nei manifesti elettorali la sua foto è al fianco di un preservativo. Siamo in piena epoca di AIDS e lo slogan recita: «La migliore per preservarci dalla corruzione». Ingrid inizia a distribuire per tutte le strade di Bogotà dei preservativi e consegnandoli si raccomanda. Mi chiamo Ingrid Betancourt, sono candidata al Parlamento e credo che la corruzione sia l'equivalente politico dell'AIDS. Tenga, le regalo un preservativo, così penserà a me il giorno delle elezioni. E sono in molti ad averla pensata quel giorno. Alla sua prima campagna elettorale Ingrid vince. A Bogotà viene eletta con il massimo dei voti. È il 1994, ha 33 anni. Quella sera stessa, il suo discorso davanti ai giornalisti sembra già un programma. Abbiamo appena dimostrato che la Colombia è abbastanza matura da chiudere con la corruzione. Ha scelto l'etica e la democrazia contro la venalità. Ha voltato le spalle a una classe politica che non la rispetta, la tradisce e la deruba da decenni. È in questo momento cruciale per la carriera politica di entrambi che i destini dei due protagonisti si incontrano di nuovo. Dopo solo 8 giorni dalle elezioni, l'allora candidato alla presidenza Ernesto Samper chiama Ingrid nel suo ufficio. Mancano 2 mesi alle elezioni e Samper sa perfettamente che per riuscire nella sua impresa ha bisogno dell'appoggio di questa donna, che in poco tempo è già diventata un simbolo della lotta alla corruzione. Quindi furbamente le propone. Il Partito Liberale ha assolutamente bisogno di un codice etico. Costituirò nel giro di 24 ore una commissione incaricata di redigerlo. Inutile dire che tengo molto alla tua partecipazione. La Betancourt è ancora ingenua politicamente e vede in questa proposta la possibilità di lasciare il segno. Accetta l'incarico e impiega 1 mese a redigere il codice etico. Quando viene convocata la conferenza stampa per annunciare il codice, Samper si prende il merito del lavoro di Ingrid e della commissione, apparendo agli occhi di tutti i colombiani come il moralizzatore dei costumi del paese. Ma la fiducia che Ingrid ha acquisito in Parlamento con il suo lavoro non svanisce. I suoi primi passi sono importanti, anche se faticosi. Con altri 3 parlamentari, denuncia un giro di bustarelle nella trattativa per un grande contratto di acquisto di armi da Israele. È una lotta difficile, ma che alla fine riesce a vincere. Ma è solo l'inizio. Un altro grande scandalo sta per scoppiare nella politica colombiana, uno scandalo che investirà in pieno il presidente appena eletto, Ernesto Samper, e avrà dall'altra parte come grande accusatrice proprio Ingrid Betancourt, la donna che con il suo codice etico aveva cercato di dare una base morale al partito del presidente Samper. Oggi a Destini Incrociati la speranza di un futuro migliore è al centro della nostra storia. È la speranza che anima Ingrid Betancourt, la giovane politica colombiana che per lottare contro la corruzione che dilaga nel suo paese ha pagato con anni di prigionia. È il 1994. Ernesto Samper, l'altro protagonista della nostra storia, è appena stato eletto 54esimo presidente della Repubblica che viene travolto dallo scandalo. Lo sfidante Andrés Pastrana, al momento di prendere atto della sconfitta, getta una bomba. Ho soltanto una cosa da chiedere a Samper. Può giurare sul suo onore di fronte al popolo colombiano di non aver ricevuto denaro proveniente dal traffico di droga per finanziare la sua campagna elettorale? Samper non reagisce alle accuse, ma l'atmosfera nel paese è pesante. Ci sono uccisioni misteriose, come quella dell'autista del ministro dell'Interno, seguite da rivelazioni clamorose come quella che prova l'esistenza di un assegno da 32 milioni di pesos a favore di Samper. Sono soldi sporchi, pagati dai signori della droga del cartello di Cali per comprargli i voti per le elezioni e che sembrano inchiodare Ernesto Samper alle sue responsabilità. Viene aperto il famoso processo 8000, dal numero progressivo utilizzato per classificare tutti i processi in Colombia. In quel lontano 1994, il processo viene anche affiancato da una commissione parlamentare istituita per valutare le responsabilità di Samper, che però finisce presto per scagionarlo. La Betancourt è indignata. Capisce che il legame fra i narcos e i politici colombiani è il vero cancro che divora dall'interno le istituzioni del paese. La protesta contro il presidente Samper diventa il centro del suo impegno politico, perché è una lotta contro il malcostume, contro la convinzione che tutto si possa comprare e che sia sempre il popolo a pagare. Tutta la sua educazione democratica si ribella e protestare contro questo stato di cose diventa il suo pensiero fisso. Insieme a un altro parlamentare inizia uno sciopero della fame in Parlamento. Viene ricoverata in ospedale dopo 2 settimane di digiuno, ma i colombiani hanno capito il suo sacrificio e ormai la seguono. Lo sciopero della fame segna una svolta essenziale nella mia vita. Suggella un legame speciale fra i colombiani e me, un regalo che resisterà a tutte le campagne diffamatorie e che mi ha permesso, 2 anni dopo, di diventare senatrice con la maggior parte di preferenze del paese. Ingrid decide dunque di sferrare l'ultimo attacco. Con l'amica giurista Clara Rojas mette giù un dettagliato dossier su tutto quello che Samper ha fatto. E ormai non si tratta più solo di corruzione, di avere intascato bustarelle. Gli assassini, i discomodi testimoni, si vanno ormai assommando alle tangenti. Oppression, you may have the dollar on your side, but oppression from the gods. gospel truth you cannot hide. And oppression, I won't let you near me. Oh no. La sfida che Ingrid vuole lanciare al presidente Samper è pericolosa. 10 giorni prima dell'esposizione della relazione in Parlamento, tornando una sera a casa, la Betancourt riceve una busta. Dentro c'è una lettera che la copre di insulti e minacce. Ma soprattutto c'è la foto del corpo di un bambino fatto a pezzi e minacce specifiche ai suoi figli. Un monito che sconvolge la sua vita. È l'orrore. Ingrid chiama subito l'ex marito, che vive come lei a Bogotà, dove quella sera si trovano i figli, e in una notte organizzano la fuga. Al mattino i bambini salgono sul primo aereo per la Francia diretti verso Parigi, dove ad aspettarli c'è la nonna paterna per una lunga vacanza. Sistemati i figli, Ingrid si sente più forte e pronta per l'11 giugno, il giorno in cui deve parlare davanti a tutto il Parlamento. Quando compare davanti ai deputati, si toglie la giacca sotto la quale c'è una t-shirt con la scritta «Soltanto la verità», quella che è venuta a raccontare. Per ore e ore i colombiani sentono Ingrid elencare le prove della colpevolezza di Ernesto Samper attraverso testimonianze, foto, ricevute, lettere. Io racconto al popolo una storia ben cupa. La storia di un uomo pronto a tutto pur di diventare presidente della Repubblica. Un uomo privo di scrupoli, legato ai Rodriguez da anni e senza dubbio convinto di agire secondo i codici di una società troppo permissiva. Alla fine del 1996 la Betancourt pubblica un libro verità su Samper intitolato «Sì, lui sapeva». È una bomba, ma la conseguenza è drammatica. Un giorno riceve in ufficio la visita di un uomo che le dice chiaro e tondo che la sua famiglia è in pericolo, che è già stato firmato un contratto per uccidere lei e i suoi figli. È di nuovo la fuga. Questa volta definitiva, almeno per Lorenzo e Melanie. I due bambini raggiungono il padre, che nel frattempo è stato trasferito per lavoro in Nuova Zelanda. Andranno a vivere con lui. Per loro la Colombia non è più un paese dove poter vivere, dove c'è un futuro. E lo dimostra il fatto che, nonostante le rivelazioni della Betancourt, Ernesto Samper continua a venire scagionato. Del resto, non potrebbe essere diversamente se più di 100 dei 186 deputati in Parlamento sono sul libro paga dei narcotrafficanti. Ed è la maggior parte di loro che fa parte delle varie commissioni istituite per controllare l'operato del presidente. Nonostante tutte le battaglie combattute da Ingrid, Samper riesce a portare a termine il suo mandato. È per questo che quando la Betancourt decide di presentarsi al Senato lo fa come indipendente, non con il corrotto Partito Liberale. Fonda il Partito Oxigeno perché lei vuole presentarsi come il nuovo ossigeno per la politica colombiana. Oxigeno è un partito verde e questo è il credo politico di Ingrid. To be green in this new millennium. Essere verde in questo nuovo millennio significa indossare uniformi da nuovi samurai. Per difendere i nostri valori, i nostri principi, i nostri ideali su qualsiasi cosa, anche sulla nostra stessa vita. Viene eletta al Senato nel 1998 con tantissime preferenze e nel 2002 decide di candidarsi alla presidenza colombiana. È il momento dell'impegno, in prima persona. Come parte del suo programma decide di andare a parlare con le popolazioni nei territori occupati dalle FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane. Le FARC sono un'organizzazione guerrigliera di matrice marxista-leninista che da decenni tiene in scacco una larga fetta del territorio colombiano con le armi e con l'odiosa usanza dei sequestri di persone. Negli anni hanno rapito migliaia di persone trattenute nella giungla anche per diverso tempo. Nel 1998 il governo capeggiato dal nuovo presidente Pastrana aveva concesso alle FARC un'ampia zona demilitarizzata chiamata zona di distensione. Grazie a queste misure, il dialogo di pace va avanti in maniera promettente fino al 2002, quando il 20 febbraio, improvvisamente, le trattative si rompono a seguito dei nuovi rapimenti ad opera delle FARC. È proprio in questi giorni che Ingrid decide di intraprendere il suo viaggio a San Vicente de Caguán, il paese dove tradizionalmente avvengono gli incontri con le FARC. Non è inusuale per i politici colombiani cercare il dialogo con le FARC. Da sempre l'organizzazione sostiene di essere il vero difensore delle popolazioni povere contro gli interessi dei ricchi. E infatti sono decine e decine i paesi che collaborano con i guerriglieri, una gran quantità di persone che Ingrid vuole conoscere, di cui vuole comprendere le esigenze e le richieste. È per questo che vuole parlare con i capi delle FARC, vuole trattare e soprattutto cercare di fermare i sequestri. No más secuestros. Basta sequestri. Basta sequestri. Che le FARC si impegnino a non rapire più nessuno e a liberare i sequestrati subito. Questa è una decisione che potete prendere ora. Basta con i sequestri. Non sa ancora Ingrid che sarà lei la prossima preda delle FARC. È il 23 febbraio del 2002. Una giovane donna che da anni lotta contro il potere corrotto del suo paese sta per essere una volta ancora abbandonata da quel governo che dovrebbe difenderla e proteggerla. Una volta ancora si ritrova a dover combattere per la sua libertà e per la sua integrità. Oggi a Destini Incrociati siamo in Colombia con Ingrid Betancourt, la donna politica che per prima ha condotto e vinto una battaglia personale contro la corruzione della classe politica del suo paese, soprattutto nella figura dell'ex presidente Ernesto Samper, l'altro protagonista di questa storia. La sua lotta appena conclusa contro Samper è la causa in qualche modo diretta del suo rapimento di oggi. Mettendosi contro la classe politica, Ingrid ha infatti scatenato una serie di ritorsioni che culminano con l'abbandono della donna da parte delle istituzioni, in una congiuntura delicatissima, come la fine dei negoziati di pace fra il governo colombiano e le FARC. Ma se il governo abbandona la Betancourt, non succede altrettanto con l'opinione pubblica mondiale e soprattutto con la sua famiglia. Melanie e Lorenzo Betancourt sono ormai due adolescenti che venerano la figura della madre che da anni si batte per la libertà del suo popolo, anche a costo di grandi sacrifici personali, come la separazione dai suoi figli a causa delle tante minacce di morte ricevute negli anni del conflitto con il presidente Samper. Quando Ingrid viene rapita, i due ragazzi si schierano in prima fila per supplicare i governi di fare qualcosa per liberare la madre. Negli anni Lorenzo e Melanie, aiutati dal padre Fabrice, smuovono l'opinione pubblica mondiale, fino ad arrivare a due personaggi decisivi per le speranze di liberazione di Ingrid: il da poco eletto presidente francese Nicolas Sarkozy e il presidente venezuelano Hugo Chavez, che grazie ai buoni rapporti che ha da anni con le FARC riesce ad avere spesso notizie dello stato di Ingrid. Posso dire che siamo sicuri che Ingrid è ancora viva. Ma in ogni caso, nel frattempo stiamo lavorando. Però, mientras tanto, vamos trabajando. Anche il presidente Sarkozy lancia un appello alle FARC e soprattutto infonde nuove speranze agli ostaggi. Bonjour. Je suis Nicolas Sarkozy, le président de la République. Buongiorno, sono Nicolas Sarkozy, il presidente della Repubblica Francese. Mi rivolgo a voi che siete in ostaggio. Io rifiuto l'idea di lasciarvi soli. Mi sono impegnato a evitarvi un destino inumano e a tutti voi voglio dire che la Francia non vi dimentica. La France ne vous oubliera. Ma intanto gli anni passano. La Betancourt resta nelle mani delle FARC ben 6 anni e mezzo. Anni trascorsi nella giungla, dove prende l'epatite, dove viene trascinata insieme agli altri ostaggi da una base all'altra, camminando ogni giorno per ore sotto la pioggia o sotto il sole equatoriale, dormendo in capanne arrangiate ogni sera. 6 lunghi anni senza il conforto della famiglia e dei figli. Quando nel 2007 arriva un brevissimo video come prova che Ingrid è ancora viva, le immagini ci mostrano una donna ridotta allo stremo, magrissima, quasi livida, senza più forze. È più o meno della stessa epoca una lettera che la Betancourt riesce a fare arrivare a sua madre. La lettera è drammatica. Qui tutti viviamo come morti. L'appetito mi si è bloccato, i capelli mi cadono in grande quantità. Non ho voglia di niente. Perché qui in questa foresta l'unica risposta a tutto quello che chiediamo è no. La vita qui non è vita, ma una lugubre perdita di tempo. La lettera getta nella disperazione la famiglia, e i figli in particolare. Lorenzo rilascia molte dichiarazioni come questa. Penso che il presidente Sarkozy abbia ben compreso il messaggio del video e della lettera. Ha capito fino a che punto mia madre è disperata, fino a che punto si spinge, lanciando un grido di speranza attraverso questa lettera. E credo che il presidente Sarkozy abbia fatto bene a dire che farà di tutto per liberare la mia mamma e che il trattamento che sta ricevendo è assolutamente inumano. Assolutamente inumano. They say you love to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lottie mama, what you gonna do now? E in tutto questo, cosa sta facendo la Colombia per la donna che negli anni si è rivelata come una delle sue migliori espressioni politiche? Non molto. Il presidente Álvaro Uribe, in carica dalla fine del 2002, ha sempre scelto la linea dura nei confronti delle FARC. Fin dall'inizio la sua scelta è di non avviare nessuna trattativa, nessun patto, nessuna concessione con la guerriglia, neanche per liberare un personaggio così importante come un senatore del governo colombiano, come è Ingrid Betancourt. Ma dopo anni di questa politica, pressato dall'opinione pubblica e dalle ultime notizie sullo stato di salute della Betancourt, il presidente Uribe inizia a cambiare atteggiamento, a dimostrare una maggiore attenzione al problema degli ostaggi, a cercare una soluzione reale. E ora stiamo ante un'angustia, perché? Siamo molto preoccupati perché alcuni testimoni liberati confermano il grave stato di salute della dottoressa Ingrid Betancourt, che è malata. Con la salute e con la vita non si può scherzare. Sono solo i terroristi come le FARC che lo fanno e questo non è accettabile. Noi chiediamo con urgenza la liberazione unilaterale e immediata di tutti gli ostaggi con gravi problemi di salute. I tempi sono maturi. Quando la Betancourt e gli altri ostaggi vengono rintracciati con certezza dall'esercito colombiano nella giungla, parte la trappola. Il 2 di luglio del 2008 scatta l'operazione denominata Scacco Matto. Grazie a una paziente infiltrazione di uomini all'interno delle FARC negli ultimi mesi, l'esercito colombiano riesce a liberare con un blitz rapidissimo di soli 22 minuti non solo Ingrid Betancourt, ma anche tre contractor americani e altri 11 ostaggi. È finita. Dopo 6 anni e 5 mesi di terribile prigionia, Ingrid Betancourt ritorna libera. Quella che segue è la cronaca del suo arrivo a Bogotà, dove può finalmente riabbracciare la madre Yolanda. Adesso vediamo che si apre il portellone dell'aereo e vediamo le prove evidenti che queste persone sono in vita. Sentiamo di nuovo le trasmissioni di bordo. Ingrid Betancourt ha un giubbotto dell'esercito, indossa dei pantaloni blu e abbraccia sua madre. Stanno piangendo, non si vedevano da diversi anni e la madre aspettava da molti anni la liberazione di sua figlia, che è stata tenuta prigioniera nella giungla per diversi anni. Dietro di lei il comandante dello Stato Maggiore dell'Esercito e anche il Ministro della Difesa. Il giornalista da studio afferma che la Betancourt si trova in un ottimo stato di salute a guardarla ed è stata la prima a scendere dall'aereo. Subito dopo gli abbracci, Ingrid fa la sua prima dichiarazione alla stampa dopo tanti anni. Vediamo se riesco a parlare, perché sono davvero molto molto emozionata. Prima di tutto vorrei ringraziare Dio, la Vergine Maria, perché a loro devo molto, per molto tempo ho immaginato questo momento di rincontrare mia madre. Mamma, non piangere per favore, non c'è più bisogno di lacrime. Quindi prima di tutto dicevo che voglio ringraziare Dio, poi voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato, che mi hanno sostenuto con le loro preghiere, che mi hanno pensato a me, che mi hanno portato nel loro cuore, anche se è stato per un momento davvero breve. Tutti quelli che hanno provato compassione per noi, che eravamo stati catturati, che ci hanno fatto vivere nel loro modo di vivere, nel loro rifiutare la violenza, perché l'unica soluzione nel nostro caso era continuare a sperare. Vorrei ringraziare tutti i colombiani, adesso parla in francese, e ringrazio tutti i francesi, tutti quelli nel mondo che ci avete accompagnato, che ci avete sostenuto, torna a parlare spagnolo, che desideravate che rimanessimo in vita. È la gioia assoluta. Nel giro di pochissimo si ricongiunge ai figli. Ingrid non li vede da quando Lorenzo aveva 10 anni e Melanie 13. Adesso sono due ragazzi grandi che in tutti questi anni non hanno mai smesso di sperare e di lottare per la liberazione della madre. Inizia una nuova vita anche per Ingrid. Viene proposta per il premio Nobel per la pace. La Francia le conferisce la Legione d'Onore. Viaggia in tutto il mondo. Viene ricevuta dal Papa e da decine di persone famose nel mondo. Ma non mancano le polemiche. Come ai tempi in cui Ernesto Samper faceva di tutto per screditare la figura di Ingrid, anche questa volta, dopo la liberazione, sono tanti gli attacchi ricevuti dalla Betancourt, accusata di essere una donna spietata, ossessionata da Dio, concentrata solo su se stessa. Fra i suoi detrattori, il secondo marito, da cui Ingrid ha chiesto il divorzio subito dopo la liberazione, nonostante egli abbia trascorso gli ultimi 6 anni a lavorare per la liberazione della moglie. e anche la sua ex amica e collaboratrice, Clara Rojas, che ha diviso con lei i lunghi anni di prigionia, non è stata tenera nel suo libro di memorie. Forse non sapremo mai la verità. Forse ci sono molti chiaroscuri nella personalità di questa donna. Certo è che per sopravvivere a quello a cui è sopravvissuta Ingrid Betancourt ci vuole una tempra che in pochi possono dire di avere. Resistere non solo alla lunga prigionia, ma alle minacce di morte, alla diffamazione, alla lotta contro un sistema di corruzione e criminalità generalizzato che ha piegato un intero paese, avrebbe distrutto chiunque. Ma non lei, Ingrid Betancourt, l'ossigeno della Columbia. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.